questo festival sarà, diciamo, centrato sugli anni 90, si intitolerà Quando il futuro è finito. Diciamo che questo festival si inserisce all'interno di un'elaborazione più complessiva che stiamo portando avanti come casa editrice, come rivista e come libreria, intorno a quelli che abbiamo definito decenni smarriti. Lo scorso giugno 2023, Festival 6 si era concentrato intorno agli anni 80, mentre per l'appunto ora andiamo avanti con gli anni 90. Decenni smarriti per quale motivo? Diciamo che sono decenni spesso mal considerati, questi che partono negli 80 e finiscono poi ai 10 del 2000. Mal considerati perché considerati, diciamo, spesso, come posso dire, fratelli minori rispetto agli anni 60 e 70, che sono stati anni importanti, che hanno caratterizzato fortemente, diciamo, il quadro politico e sociale italiano e internazionale. Crediamo che invece questi anni, questi che partono per l'appunto dagli anni 80, siano comunque, restino anni significativi e importanti da analizzare, perché anni in cui sono state prodotte elaborazioni importanti e anni anche in cui ci sono state delle importanti mobilitazioni. Quindi riattraversarli serve anche un po' a costruire una genealogia e capire anche un po' le radici del presente in cui viviamo, ecco. Ecco, chi vi aiuterà, diciamo, in questa genealogia a scoprire gli anni 90 e anche le sue lotte, insomma, le sue rivoluzioni? Chi saranno gli ospiti che vi accompagneranno? Sì, allora, il programma quest'anno è molto ricco, abbiamo pensato di farlo addirittura di disporlo, diciamo, su 5 giornate. Si partirà il primo giorno con il primo evento, Quando il futuro è finito, che dà un po' il titolo al festival, in cui il ragionamento un po' la faccio molto semplice. Sono gli anni in cui finisce in un certo senso la fantascienza, ma non perché la fantascienza non è più capace di prefigurare gli scenari futuri, ma proprio perché quegli scenari che la fantascienza ha dipinto si sono realizzati. Infatti gli anni 90 sono gli anni delle rivoluzioni tecnologiche, gli anni, diciamo, della globalizzazione e quant'altro. Continueremo poi i giorni successivi, il giovedì 16 maggio al Centro Polifunzionale Il Pallone, in cui ci sarà un incontro con Alberto Burgio, Carlo Galli, Adelino Zanini sul berlusconismo, uno dedicato alla Bologna negli anni 90 con Valerio Monteventi, Roberto Panzacchi e Michele Ravagnolo. Poi il venerdì invece ci sposteremo alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, ci sarà, diciamo, un momento sulla musica dei 90 con Gia Dell'Andretto, un momento sul cinema degli anni 90 con Fabrizio Pozzetti, un momento, diciamo, sull'industria del porno nei 90 con Mariella Popolla, un altro evento con Angelo Pasquini su Il male negli anni 90, sulla rivista satirica, poi a seguito, dopo l'aperitivo, un momento sull'industria del calcio con Gabriele Battaglia, Darwin Pastorin, Pippo Russo e Vincenzo Scalia. Passeremo poi al sabato, vado molto veloce, con un momento sulla transizione post-socialista con Rita Di Leo, Romeo Orlando e Christian Chadowski, una riflessione sul modello spagnolo della transizione spagnola con Emmanuel Rodriguez Lopez della casa editrice spagnola Traficantes de Sueños, un incontro sul lavoro autonomo e sulla precarietà degli anni 90 con Federico Chicchi, Anna Curcio, Andrea Fumagalli, Cristian Marazzi e Cristina Morini, un incontro sul pensiero di Judith Butler sulla teoria e pratica, diciamo, femministe degli anni 90 con Federico Zappini e Rene Villa, un talk musicale sul rap, diciamo, degli anni 90. Concluderemo la serata con un incontro sull'arte degli anni 90 con Carla Pagliero, Francesco Spampinato ed Elvira Vannini. Fine domenica, siamo arrivati a conclusione, un momento su Guerra Impero negli anni 90 con Roberto Ciccarelli, Rossana De Simone ed Elia Zaru. Un incontro sulla Lega degli anni 90 con Vivo Giacchetti, Michel Hussein, un incontro sulla esplosione della questione razziale con Anna Curci e Luisa Riusfi, e infine un momento sui centri sociali negli anni 90 con Aldo Bonomi, Luca Casarini e Luca Perroni. Insomma, il programma è molto ricco. Sì, veramente un programma ricchissimo. Per questa settima edizione non vi siete fatti mancare nulla, insomma. Sì, ci abbiamo provato, per l'appunto gli anni 90 sono anni comunque ricchi e sfaccettati, per l'appunto, quindi dalle espressioni artistiche all'emersione di nuovi linguaggi alla ridefinizione di importanti teorie, sono degli anni molto ricchi e per l'appunto abbiamo provato, insomma, a tenerli insieme con vari incontri. Ecco, vogliamo ricordare, Giuseppe, quando sarà, i giorni e anche i luoghi, perché diciamo che ci sono più luoghi in cui si svolgerà il festival. Sì, esattamente, Rachele. Allora, il festival si terrà dal mercoledì 15 maggio a domenica 19 maggio. Il primo giorno, mercoledì, l'evento si svolgerà alle Serre dei Giardini Margherita in via Castiglione 134. Giovedì invece saremo al centro polifunzionale Il Pallone di via del Pallone 8 e poi venerdì, sabato e domenica saremo in via Santa Vincenzo 50 alla casa di quartiere Scipione del Ferro, dove abbiamo già svolto il precedente festival. Perfetto, grazie mille Giuseppe per averci fatto da cicerone tra queste giornate del Festival di Derive a Prodi e ci sentiamo per la prossima edizione. Grazie a te Rachele, grazie a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici e vi aspettiamo al festival allora.